questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La sigla c'è anche Daniele Bellasio. Sono qua. Ma Daniele, sono arrivato. Ma cosa non è questo stage? Cioè questo, allora, intanto ci siamo cambiati. La postazione è bellissima. Ci siamo cambiati d'abito nelle cucine, perché siamo a uno stand bellissimo delle cucine. Delle cucine Lube. Lube, stupendo. Arrivare qui alla fine. Io ero preoccupato. Allora adesso lo dico. Lo dico a tutti gli ascoltatori. Sì, è da ieri sera che Daniele Bellasio mi scrive: non arriverò mai, è lontano. È a un certo punto mi scrive in metropolitana a due fermate da qua, sono lontanissimo. Potete venire perché è facile. È a prova di Bellasio. È a prova. Ho trovato persino la navetta, ero l'unico italiano. Infatti mi veniva soggezione a chiedere indicazioni in italiano, perché ero l'unico italiano presente sulla navetta da tutto il mondo. È stato bellissimo. Siamo qua al Salone del Mobile. E però la trasmissione non ci occupiamo di solo. Intanto ho fatto abbatte i bicchieri. Siamo in cucina, è la prova che siamo in cucina. Va bene, allora, et di Bellasio, et Marta Cagnola. Abbiamo messo le due foto anche in diretta. Tu hai messo le foto della mia pelata e io ho messo la foto dei tuoi capelli. Ma no, è perché hai tagliato i capelli corti. Sì, va bene, diciamo così. Corti. Et di Cagnola. 349 di Cagnola. Et Marta Cagnola. Et di Bellasio, 349. 238-6666, mandateci gli sms perché non abbiamo davanti i WhatsApp. Quindi non ce l'abbiamo. Perché in cucina WhatsApp non si porta. No, questa volta SMS, dai, solo per questa puntata. Allora, questa settimana è stata la settimana di un importante lutto nella politica italiana, anche nel mondo della rete, perché Gianroberto Casaleggio è stato un grandissimo studioso della rete, prima ancora che leader politico, soprattutto delle reti, non soltanto intese come internet, ma come tutte le reti che noi creiamo nelle nostre vite di relazioni tutti i giorni, da quando stringiamo una mano, quando compriamo un caffè, paghiamo un qualcosa con la carta di credito e poi andiamo su internet. E quella mattina c'è stato intanto un po' di incredulità, perché sì, si sapeva che Gianroberto Casaleggio aveva dei problemi di salute, anche dei notevoli problemi di salute, che però lui qualche giorno prima in un post sul blog di Beppe Grillo aveva in parte smentito, in parte cercato di smorzare, soprattutto in seguito a... Cioè voleva tutelare giustamente la propria riservatezza. Ma certo. E quindi però era appunto giovane. La notizia è arrivata appunto molto... Lui giovane, cioè... Ha subito destato grossissimo stupore, sgomento. Io devo dire che sono rimasta molto molto colpita dal sincero dolore degli esponenti dei 5 Stelle, che secondo me hanno dimostrato... Beh sì, perché si vede che sono un gruppo in qualche modo diciamo molto compatto, tant'è vero che hanno deciso dopo che c'è stato il funerale, sai, come pare avesse richiesto lo stesso Gianroberto Casaleggio, hanno deciso in qualche modo di celebrare la cosa con una cosa un po' strana. Sì, per un funerale, diciamo. Con un brindisi. E noi abbiamo il video. Mostriamo alla radio il video che è girato molto molto molto in rete questa settimana. A Gianroberto! E poi le due immagini che sono circolate di più, il brindisi e poi il coro dei simpatizzanti e degli esponenti del Movimento 5 Stelle, onestà. E anche di questo dovremmo avere un breve audio. Daniele, come commentiamo questi audio che poi davvero... Ma in rete c'è poi stata anche un po' di polemica, sia per il fatto che sono stati un po' fischiati gli esponenti del PD, alcuni dei leader del Movimento 5 Stelle hanno detto beh, però visto che avete detto delle cose pazzesche quando ero in vita, qualcuno ha ricordato che a volte era stato accusato persino usando termini tipo nazismo, insomma cose che è meglio dimenticare, quindi c'è stata un po' di contestazione, però è anche il grido onestà, insomma. insomma, era evidente che la morte di un leader politico diventasse anche di per sé un fatto politico, anche perché devi sapere che si è aperto tutto il dibattito sulla successione, perché Casaleggio era appunto, oltre che il consigliere su tutte le questioni telematiche multimediali di Beppe Grillo, anche un po' uno dei due, almeno uno dei due leader. E uno dei più, come dire, avvantaggiati, favoriti a diventare leader del Movimento 5 Stelle da tempo è Luigi Di Maio, conosci? Conosco Luigi Di Maio, è un bel bagai. Entrambi si dice. Si dice entrambi si dice. Sembra però un italiano. Po' più volgarotta come cosa, no? No. Che vuol dire no, bagai? In Brianza, avimercate vuol dire ragazzo. Ragazzo, io pensavo o bambino peggio, anche. Si dice un bel bagai. Si dice. Bel bagai è Luigi Di Maio che ha detto, vabbè, all'inizio insomma si è molto low profile, tutti low profile perché no leader, certo. Movimento sono cittadini. Come diceva Casaleggio, la rete è un'intelligenza collettiva, non serve un leader. Però ha detto, se proprio la rete me lo chiede, la rete, c'è il numero di telefono della rete. Glielo chiediamo se vuole Luigi, come l'ha detto, abbiamo il video audio? Ce l'abbiamo il video. Come l'ha detto? Cominciamo a dire che probabilmente nel 2017 ci saranno le elezioni politiche, perché questo governo è al centro di uno scandalo enorme che si chiama Trivellopoli, ha un sottosegretario indagato 2 giorni fa. Se ci saranno le votazioni tra i nostri iscritti, si deciderà il candidato premier. E se la rete la eleggerà? Beh, io mi prenderò questa responsabilità, ma siamo pronti come gruppo a prenderci questa responsabilità. E questo era il TG1 e quindi adesso tutto sta qua. Ammazza, il TG1 l'ha detto. Quindi è tosta come cosa. Quindi è ufficiale, c'è cioè una bolla. Sì, però ha detto poi subito il gruppo. Però insomma, comunque è evidente che Luigi Di Maio è uno dei possibili leader, anzi lo è già. Allora, la prossima puntata io la voglio dedicare tutta ai referendum, perché questa volta non possiamo dire nulla, forse non potevamo dire nemmeno la parola referendum, non lo so, perché l'abbiamo detto? Ovviamente non lo so, ovviamente non si può dire assolutamente niente. Non diciamo niente e quindi così non traffico, possiamo parlare della lite che ho fatto tutta questa settimana in televisione. Io volevo parlare in TV. Ho litigato in TV. Tra l'altro dove con un uomo molto grosso che se mi incontra, hai visto, c'ha 2 spalle, altro che bagai. In che trasmissione eri? L'aria che tira. Abbiamo litigato io col presidente Emiliano. Ma il punto non è se abbiamo litigato che non interessa a nessuno. Il punto è, chiedo in rete, siccome questa trasmissione si occupa di rete e non di referendum, troll è un insulto oppure no? È un'offesa oppure no? Cioè tu vuoi sapere se Goldoni devi far causa? Sta facendo causa. Emiliano è pure magistrato, quindi meglio. Però Roberta, com'è troll? Se guarda, io vedo gente che dice sì anche adesso Alessio dietro la vetro dice sentono troll... anche da fuori anche Alessio, quindi in rete. Decidete se la rete lo decide, il popolo della rete come Di Maio, se la rete lo decide, vediamo. Volevo parlare solo di questo, ma ne parliamo alla prossima puntata, no, perché adesso c'è il adesso è praticamente l'ora di dare il via al traffico, ma in questa puntata abbiamo un sacco di cose divertenti, visto che dobbiamo stare attenti a non toccare temi decisivi appunto in questo weekend in cui succedono tutte qualsiasi cosa. Tra poco parliamo di comicità con uno dei miei preferiti. Sei pronto? Sì, che è già stato a RadioTube, è un grande onore riaverlo. Un ritorno. Tra pochissimo, perché adesso andiamo a sentire per qualche istante cosa sta succedendo su strade e autostrade e poi torniamo ancora insieme con RadioTube. RadioTube. Abbiamo cercato in ogni angolo della penisola, visto più di 500 provini, selezionato 160 artisti. Il premio, un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale, veramente. Presenta Gabriele Cirilli. Eccezionale, veramente! Guardatemi! E questo era il trailer di Eccezionale Veramente, talent show comico che ha particolarmente appassionato Daniele Bellasio. Allora, caro Daniele, io ti faccio un regalo, perché conduce Gabriele Cirilli e noi Gabriele Cirilli ce l'abbiamo a RadioTube. Grande. Ciao Gabriele, bentornato. Salve a tutti. Ciao. Che meraviglia. Come si dice, buon pomeriggio a tout le monde. Ah, tu le moda, Gabriele, com'è questa esperienza? Come ti stai trovando? È un'esperienza fantastica. Intanto ci tengo a dire che voi avete capito lo spirito del programma, perché l'avete presentato in un modo giusto. Cioè, questo intanto non è un programma comico, è la ricerca del comico eccezionale. E io, avendo girato tutta l'Italia, ho selezionato 160 caratteri, chiaramente alcuni più forti, alcuni più deboli, che potevano interessare la nostra giuria. Mi sto trovando benissimo, perché io stare in mezzo ai comici, per me è la categoria che va difesa a spada tratta, e quindi ci sto benissimo, sto godendo come... sentite l'entusiasmo? Sì, no, effettivamente, cioè, allora... Si vede. Mentre uno guarda la trasmissione si vede questa cosa della gioia. Però tu sei il conduttore, ecco. E c'è una giuria, e quindi... Qui è complicato, questa era la stessa mia curiosità. Tu devi stare lì, guardare, cioè, quello che decidono gli altri. Fare tre lavori contemporaneamente, ecco. Gestire la giuria, valutare i comici, essere allo stesso tempo attore comico, quindi è molto complicato. Molto complicato. Io ho portato in televisione nient'altro che la cosa che mi ha reso felice a me. Vi vado a spiegare velocemente. Io nel 97 vinsi un concorso di comicità dedicato alla persona Ugo Tognazzi, che era il concorso, un premio Cremona, e mi ricordo che arrivai primo, ed era proprio strutturato in questo modo: c'era una giuria, c'erano dei comici che si esibivano, i più forti, i più deboli, e io vinsi questa gara e ho detto: perché non dare la possibilità a qualcun altro di avere la stessa mia emozione? E allora sono andato in giro per l'Italia e ho cercato, e speriamo di esserci riuscito, l'eccezionale veramente, adesso vedremo, alla 12ª puntata, alla finalissima, vedremo chi sarà. Tra l'altro, allora aspetta che Gabriele, mi dicono che se hai un viva voce si sente così, non lo sappiamo, però eccolo, magari... vediamo come si sente adesso. No, adesso vabbè, si sente benissimo. Non sono si molto esperto benissimo. Con la tecnologia. Alla grandissima. Guarda, ma perché poi qua ci sgridano. Sai cos'è la cosa bella, Gabriele? Che spiegate anche un po' degli aspetti tecnici della comicità. Per esempio, nell'ultima puntata sono venute fuori delle cose che ovviamente i telespettatori non sanno, ma svelate anche qualche trucco. Cioè, per esempio, c'era quel comico fantastico che ha fatto la cosa con la morte, non so se non è che mi bravo, sto schierando votando Bianchi, qualcuno bravissimo. Adesso ormai ha sì, la sindrome referendum no, però lì avete spiegato alcune cose tecniche, a me è incuriosito molto questo aspetto, che siete pronti anche un po' a raccontare la vostra professione. Sì, diciamo che io adoro il mondo dello spettacolo, e cerco di, quando faccio per esempio gli spettacoli miei, io cerco di mettere dentro tanti stili insieme, perché la comicità c'ha tanti stili. Io voglio sempre fare sul palcoscenico una contaminazione, che sia satira di costume, satira sociale, comicità demenziale, giochi di parole. Tutto questo è apprezzato dal pubblico, e quindi magari sempre averne in televisione di tutti questi tipi di comicità. E l'altra volta abbiamo cercato di spiegare anche come i giochi di parole, come si fa un certo tipo di satira. Io non mi avvicino solo a quella politica, perché insomma si rischia di essere offensivi, e quindi io per adesso mi fermo a quel tipo di comicità lì. E dai miei comici ho voluto quello. Di politica non so se ci avete fatto caso, ma c'è pochissimo in eccezionale veramente. Forse per quello che si ride. Davvero. No, perché io c'ho questa teoria che ormai su... Com'è la tua teoria? No, tu lo sai che... Vabbè, ma adesso non facciamo nomi. Cioè, far ridere sui politici a volte è un po' troppo facile. Quindi la satira sui politici, ormai per esempio da quando esistono i social network, la fanno più o meno tutti. È molto più difficile far ridere sugli altri temi, penso io, però... No, sì, io sono d'accordissimo. E soprattutto quando si parla, per esempio, ecco, avete nominato la morte, cioè far ridere con un argomento come la morte, oppure per esempio c'è stata una ragazza che ha fatto ridere tantissimo sul tema del suicidio, o le ragazze Palla e Chiatta che hanno fatto ridere sulla grassezza. Cioè bisogna mettersi in discussione, nessuno è perfetto, e quindi è bello ridere dell'imperfezione, dei difetti, come quando io facevo Tatiana, no? Non è che volevo prendere in giro il grasso, era un po' prendersi in giro. Come io non è che sono una silfide, io spesso metto i gilet proprio perché nascondo quello che c'ho sotto, capito? E quindi bisogna il gilet far ridere, è una grandissima invidia modo. Da parte delle donne, perché vi risolve tutto, vi risolve tutto. Perché vi? Ma no, vi uomini, voi coloro, costoro uomini, essi, ma no, no, pensa sempre, ma perché non lo risolve le donne, non ho capito? Ma no, perché noi non lo portiamo, noi dobbiamo mettere delle cose ampie, ma invece tu metti tutto la diverso, camicia, poi metti il gilet, ma interessante come discussione. Parlavamo degli argomenti di cui si può ridere, allora, in rete spesso si ride di cose molto, molto feroci, in TV ovviamente ci si possono concedere cose meno feroci di quelle che ci si possono concedere in rete e a volte anche a teatro. Ma Gabriele, secondo te si può ridere di tutto? Si può ridere di tutto, l'importante è non diventare offensivi. Io per esempio, ecco, avete nominato la rete è una la salvezza del mondo, per carità, non voglio dire il contrario, però ha dato la possibilità di espressione un po' a tutti riescono a esprimersi in rete e come uno stadio, solo che lo stadio si fa per sfogarsi, no? Quindi esce di tutto, arbitro cornuto, si dicono parolacce, la rete è un po' quello, quindi bisognerebbe un po' dosare i giudizi nella rete. Perché si può fare della critica, sana critica, e io ne apprezzo e l'accetto sempre. Quando diventa offensiva, allora lì bisognerebbe che qualcuno facesse un po' d'ordine. Senti, ma tu le segui, ad esempio, quando ci sono le tue trasmissioni, i tweet che arrivano, visto che sì, tu Twitter lo usi tanto? Per questo che ho detto. Io seguo tantissimo la rete, mi interessa sentire la gente cosa pensa e arrivano delle cose ma di una ferocia, di una cattiveria che come fa a essere il mondo così cattivo veramente? Cioè questo per esempio è un format nuovo, italiano, pensato da me e Federico Andreotti, no? Andiamo alla ricerca sempre di format stranieri, da Tusiche Vales, Italia's Got Talent, una volta che c'è un format italiano che potrebbe essere apprezzato, portato avanti, può essere spinto, no, tutti lì a essere invidiosi, a criticare, invece secondo me bisogna portare avanti il prodotto italiano, questo è un mio giudizio molto personale, e poi abbiamo avuto tanti estimatori, abbiamo avuto Celentano che ha scritto Celentano che ha fatto un endorsement clamoroso, come tanti altri critici, per carità, però ci sono delle persone che usano una cattiveria, ma non nei nostri confronti, in generale, per esempio nei confronti di Sergio Lucarelli. Non sapete cosa non esce. Gabriele, come ti difendi? Perché io quando mi scrivono certe cattiverie in rete, piccina come sono, che non sono allora, così importante. Devi essere contenta, tanto... No, io ci rimango malissimo. Io ci rimango io malissimo. Io invece spero sempre di essere attaccata. Io rispondo a tono. Ah, vedi. Ma sì, Daniele si diverte. No, io non vedo l'ora di essere bersagliato. Io vorrei vedere, vorrei essere criticato come la Lucarelli, come esisti, no? Se ti criticano, esisti. No, io invece vorrei telefonare a tutti ma e dire no. Ma una critica, quello che dico certo, io. Se è certo, la critica, va certo, bene. Certo, ma se uno offende, quella è una cosa brutta, brutta, brutta. Io non mi permetterei di andare... Cioè, io spesso rispondo, scusa, mi dici che lavoro fai tu così posso offenderti anch'io sul tuo lavoro? È giusto. E lì stanno zitti perché nessuno ha il coraggio poi di dire io faccio, che ne so, l'impiegato, io faccio il professore, perché poi te ne dico io pure sulla sanità, sull'istruzione, eccetera. Quindi, senti, insomma, ma Gabriele, ma durante la trasmissione i comici, come la per esempio, adesso io lo dico perché lo penso, l'altra sera, mentre i comici andavano in onda, a un certo punto tu ne hai fatte una e mezzo di battuta, Diego ne ha fatte una e mezzo, e cavolo, c'è la differenza, scusami se lo dico, si vede subito. I comici come la prendono sta cosa? Come io vedessi Lionel Messi che fa i palleggi di fianco a me? Oppure dovete mettere in conto questa cosa, come Sanremo, no? Chi partecipa o chi viene come ospite. Cioè chi viene come ospite è tranquillo, sereno, canta la sua canzone, apprezzato. Chi partecipa ha dentro di sé una pressione, uno stress che vanno al di là di ogni cosa. Quindi molti comici, per esempio, si sono giocati male il pezzo. Io, per esempio, ai provini, molti hanno fatto molto più ridere che poi in trasmissione. Perché poi lì sei davanti a una giuria eccezionale veramente, sei davanti a un pubblico vero, caldo. Quel pubblico non è quello pagato che vedete spesso in televisione, quel pubblico viene lì e si diverte veramente. O non si diverte veramente. Quindi insomma non poi potrei io, mai. Io per esempio a casa sono un conduttore radiofonico bravissimo. Quando vengo, no, però è vero, l'ansia da prestazione è purtroppo, ma il fuoriclasse si vede in quello. Però, pensa se tu avessi un talent show in cui devi dimostrare tutto in un minuto, di essere un grande conduttore in un minuto, no? Non saprei che cosa fare in quel minuto lì per essere... Io in un minuto faccio altro, No, non vogliamo sapere. Gabriele. Non vogliamo sapere. Gabriele, il teatro adesso dove? Come teatro. Quando? Sì, io sto quasi concludendo. Il 7 maggio, l'ultima data, Chieti in Abruzzo. Stasera sono a Monza, poi ci avrò Bologna il 22 e tanta provincia. E porto in scena uno spettacolo. Mi apro al pubblico. Ecco, apro il mio hashtag. vedete come sono molto moderno. Una volta si chiamava album fotografico, no? Quello che si sfogliava. Certo. Adesso abbiamo la possibilità di, invece di sfogliare, di cliccare, e quindi apro in scena il mio hashtag e ogni foto, ogni riflessione dà spunto per partire per un monologo, una canzone. Ed è uno spettacolo veramente completo, bello. La gente quando viene dopo in camerino che mi abbraccia, quando mi fanno le standing ovation, io sono veramente felice quando si riesce a creare quell'interazione, ecco, tra l'artista e lo spettatore. Bello. Sono felice. Quanto mi piace Gabriele Cirilli, perché poi è una persona forte, carina. Forte, mi piace, mi piace, mi piace. Grazie, Gabriele, grazie di essere stato con noi. A prestissimo, grazie, ti chiamiamo ancora. E ogni tanto quando noi ti richiamiamo. Io sono a vostra disposizione, quando volete, veramente. Grazie. Eccezionale veramente, sulla 7. Sulla ciao. 7, grazie, grazie Gabriele. A proposito della 7, sì, prima di salutarci per una brevissima pausa, perché dimmi, poi saremo dimmi, ancora dimmi insieme, ce lo facciamo un crozzino? Ce lo facciamo un crozza? Hai no, capito, sai che perché io prima alludevo a lui quando parlavo della comicità politica? No, perché no, mi ha fatto no ridere. Sì, ma non possiamo parlare. Ah, non possiamo parlare. Allora sera manderai il solito cuoco vegano. Ma scusa, ma questa è la radio di Cruciani, mandi un cuoco vegano secondo te? Ma noi siamo le cucine, siamo Eurocucine, siamo al Salone del Mobile. Sì, ma in cucina si può mangiare anche non vegano, eh. Però io darei pure un po' di cuoco vegano, perché mi hanno detto che ieri lanciamo sul fronte vegano. Mi hanno detto che ieri sera ha fatto qualcosa di straordinario. Vai, vai. Io ero in radio, non ho sentito. Sentiamo cosa ha combinato Crozza, ci ritroviamo tra poco. No, perché lei invece, scusi, quando usa l'olio... Ma certo, io l'albero non solo lo abbraccio, stabilisco con esso un contatto primordiale, con l'albero, spogliandomi di ogni orpello e di ogni indumento. Ah, si mette nudo? Natura alla natura. Sì. Alla ricerca di un segno di assenso da parte dell'ulivo. E lo trova il segno di assenso? Non sempre. Ah, no, no. Più che altro trovo il contadino che mi spara col fucile e sale. Certo, se va nudo. Perché il vilico non comprende la filosofia della cucina abbraccista. Abbraccista, che sarebbe solo per... Beh, abbracciare gli alimenti prima di utilizzarli. Ah, sì. Ma anche abbracciare la loro origine. Cioè... L'ulivo per l'olio, il campo di grano per il mais. Sì. Alla quarta ricetta con i fichi d'India, la fottutissima cucina abbraccista, però l'ho mollata. Lo capisco. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. YouTube. E volge quasi al termine questo lungo pomeriggio. Abbiamo ancora mezzo, dici? Ma io sono qua dalle tre, io ho tre ore di diretta faccio. Tu arrivi tranquillo all'ultima ora. Lo così so, mi dimentico. Però adesso è un blocco fantastico. Perché, sì, è un blocco fantastico. Anche lui è un ospite che abbiamo già avuto a RadioTube. Ma vabbè, sentite com'è sai contento, lo so, vabbè, Daniele Bellasio, nella... perché ha le sue passioni, ognuno ha le sue passioni. Uno dei miei giornalisti preferiti, anche perché si occupa di uno sport che amo molto e se ne occupa in un modo fantastico, perché sa essere tecnico, ma anche raccontare le cose, le emozioni nel modo migliore. E lo presenti tu? Lo presento io? Sì. O lo presentiamo con... No, dai, lo presento presentiamolo io con quello che dice. Perché questa settimana... Okay, okay, ok, brava che mi hai dato questo suggerimento. Vedo che... Vedi il che bravo conduttore. Dunque, Daniele Bellasio sta imparando tutto. Sì. Questa settimana Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ha giocato la sua... Di basket. Beh, vabbè. Americano. È ovvio, certo. Beh, sì, americano, certo, ma anche un po' italiano. Poi dopo diciamo perché. Ha giocato la sua ultima partita... E ha fatto tra l'altro 60 punti, pazzesco. Cioè si è ritirato alla grande. Ma tu devi sapere che un giornalista italiano bravo, tanti anni fa, aveva capito che quel ragazzo lì diventava forte. Senti un po'. Bryant va dentro, vuole forzare il tiro, lo mette, signori, giù il cappello di fronte a un campione, 21 anni ma già campione, C maiuscola. Beh, cioè 21 anni, quindi una ventina d'anni fa. Quanti anni ha Kobe Bryant? Non so, adesso un po' meno, chiediamo forse. Sì, un po' meno, sicuramente di me. E, e quindi abbiamo con noi Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno, 16 anni fa, tanto tempo fa. Infatti 16, dicevo... Te lo ricordavi? Come, scusa? Te lo ricordavi? Mi ricordo la partita, perché è una gara 4 di finale, è stato il primo momento in cui si è manifestato Kobe Bryant nel suo essere Kobe Bryant. Beh, il grande commentatore sportivo è anche quello che capisce subito chi sono i talenti. Beh, certo, a 21. Dicevo a Marta Cagnola. Perdonatemi, ma bastava essere lì, non ci voleva un grande commentatore. Però, dai. Senti, Flavio, glielo diciamo a Marta perché è un po' italiano Kobe Bryant? Molto italiano cestisticamente, perché è venuto in Italia quando aveva 6 anni a seguito di suo padre, Joe Bryant, detto Jelly Bean, ed è stato 2 anni a Rieti, poi è stato un anno a Reggio Calabria, un anno a Pistoia, 2 anni a Reggio Emilia, ha iniziato a giocare qui, è cresciuto come giocatore qui, parla un italiano assolutamente perfetto, anche se ha una buffa inflessione un po' reatino, un po' pistoiese, un po' emiliana, ma un italiano assolutamente da lingua madre. Vabbè, possiamo portarlo in Italia a fare il commentatore. Ma dice che forse torna in futuro, adesso non, Flavio, si è capito bene se viene a fare qualcosa in Italia. Non a giocare, potrebbe però mantenere alcuni interessi. Io credo che in Italia qualche volta lo vedremo. Ma perché tutto questo? Allora, io, come sapete, di basket mi intendo veramente molto poco, però io ho visto che nella mia timeline di Twitter, cioè tutte le persone che seguo su Twitter, il momento dell'addio di Kobe Bryant è stato commentatissimo, seguitissimo, cioè c'è un vero affetto nei suoi confronti. Flavio, perché? Beh, c'è un vero affetto perché è stato un grande giocatore, c'è un vero affetto e anche un vero meno affetto perché è stato uno dei giocatori che di più in assoluto, forse uno degli atleti che di più in assoluto ha polarizzato determinati sentimenti. Io non sono un grande tifoso delle polarizzazioni superficiali, qua sicuramente è stata attuata, addirittura è stata anche cavalcata sul finale. Uno degli spot che ha fatto aveva come claim love me or hate me, amatemi o odiatemi. Io non vorrei essere obbligato né ad amare né ad odiare un giocatore o in generale una persona, però lui ha polarizzato e quindi quando smette uno così, tra quelli che lo hanno amato e quelli che lo hanno odiato, ma se capiscono qualcosa rispettano, c'è stata tanta attenzione. Anche perché poi in fondo noi spesso ci dimentichiamo che il basket non è uno sport così antico, è uno sport abbastanza giovane, quindi noi assistiamo un po' alla costruzione dei miti in fondo in diretta, Michael Jordan un po' di tempo fa e adesso Kobe Bryant. Sì, siamo abbastanza giovani tutto sommato come sport e soprattutto uno sport in evoluzione. Jordan ha fatto delle cose, Kobe Bryant ha fatto delle altre, adesso c'è Steph Curry che ne sta facendo delle altre ancora. Credo che sia la bellezza di uno sport che si rinnova nelle regole ma anche nella maniera di giocarlo ad alto o altissimo livello. Tu hai detto in evoluzione e tra l'altro noi ti abbiamo chiamato anche, però non l'abbiamo ancora letto perché esce il 21 aprile. Basketball Revolution. Sì, ma con un trattino tra R e Evolution, esatto. Quindi è un po' Revolution e un po' Evolution. Sì, è andato un po' a trovare una storia di un po' di anni fa, Flavio, raccontaci. Sì, ho pescato delle storie tra il 1930 e il 1960, credo non particolarmente conosciute e note, perché proprio volevo anche io documentarmi, perché uno sport così in evoluzione poi alla fine comunque ha delle cose fondanti, degli elementi costitutivi che sono sempre gli stessi, sono stati declinati in maniera geniale e molto brillante anche 40, 50 e 70 o 80 anni fa, e quindi invece che fare un libro su Bryant, James, Curry, che ormai si possono conoscere con molta facilità, sono andato un po' più indietro per gusto personale. Ho una curiosità invece per quanto riguarda proprio questa storia di Kobe Bryant, perché dicevamo prima si è ritirato alla grandissima. Quanto è difficile per uno sportivo abbandonare, lasciare, dire è arrivato il momento? Perché mi pare che insomma nel calcio se ne sta parlando tanto, con dei grandi campioni che si sentono messi da parte perché sono arrivati a una certa età ma pensano di poter dare ancora molto. Questo nel basket succede oppure la situazione è più serena? No, succede. Storicamente è difficile capire quando è il momento di lasciare, e al di là del momento di lasciare è ancora più difficile capire quando forse sarebbe il momento di magari continuare, perché quella è una scelta libera, ma non tenere ostaggio la squadra, diciamo. Ma la situazione di Kobe Bryant è stata molto particolare, perché nella scorsa, ancora di più in questa stagione, per una serie complessa di ragioni, i Lakers comunque altro che perdere non potevano fare, e perdere addirittura era la meno peggior cosa che potessero fare. Quindi avere un Kobe Bryant comunque in declino, perché dopo 20 anni chiunque è in declino, non rappresentava un problema da questo punto di vista. Senti Flavio, chi ti segue sui social network, ma comunque nel tuo lavoro di giornalista, sa che c'è un altro tema che tu segui molto, ed è il tema della legalità, della lotta alle mafie. Tu sai che nell'ultimo periodo, nell'ambito della professione giornalistica, ma non solo, si è molto discusso di un evento televisivo, ovvero dell'intervista del figlio di Totò Riina con Bruno Vespa. Ci sono state polemiche, chi ha difeso Vespa, chi ha detto comunque è un tema importante, va trattato in ogni modo. Tu che idea ti sei fatto, che opinione hai di quanto è avvenuto? Ma credo che limitarsi all'esecrazione, all'indignazione, a buttare tutto sulla schiena di un singolo, anche se non condivido niente di quello che ha fatto Bruno Vespa, sia assolutamente negativo. La cosa importante credo sia capire, e la prima cosa da capire, ed è il motivo per cui non avrei fatto quello che ha fatto Bruno Vespa, è capire perché il figlio di un mafioso a sua volta, uso termini tecnici, ci sono fior di sentenze passate in giudicato che qualificano in questa maniera il figlio di Totò Riina, voglia scrivere un libro e voglia andare in televisione. Non dico fare un'intervista, perché un'intervista presuppone che ci siano delle domande alla ricerca di quello che di vero uno vuole dire. Allora, se riuscissimo a rispondere a quella domanda, io credo saremmo tutti più tranquilli, perché è talmente inusuale per chi conosce bene il paesaggio che un mafioso scriva un libro o che un mafioso vada in televisione, che chiederlo onestamente è il dovere minimo elementare di uno che fa il giornalista. Parere del tutto personale ed esterno, io mi occupo di sciocchezze e quindi Non ho alcun titolo, però cittadino lo sono e posso provare a dire quel poco che penso. No, molto, molto interessante questa tua, come dire, questo tuo suggerimento a cercare di capire perché ha voluto scrivere il libro e andare in TV. È molto, molto interessante. È quasi l'avvio di un'inchiesta giornalistica, ovviamente. Sì, sarebbe Vai, bello Marta. Poterne parlare ancora a lungo. Io ringrazio Flavio Tranquillo, anche perché dice non sono titolato, però questo suo interesse per la legalità, certo, lo mette anche proprio nella sua biografia di Twitter, perché father and husband who loves basketball, e quindi questo of course, è, direi, hates mafia and lives a great life, ed è fantastico. Allora, Basketball Revolution, la prossima settimana lo aspettiamo con grande gioia in libreria. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie, per essere, ciao, stato con noi. Ciao, grazie a voi. Ciao. Che meraviglia, adesso, anche perché così imparo qualcosa di basket. E adesso basket. Lo vedi come faccio? Lo vedi? Anche gli ascoltatori stanno vedendo. Anche gli ascoltatori stanno vedendo che stai mimando un volante. Sì. Quindi è il momento del traffico e ci ritroviamo tra pochissimo. Radio Tube. E come passa veloce il tempo. Sai, Marta, che io volevo richiamarti, No, cioè, come passa veloce passa il tempo. Però io volevo richiamarti a un altro tipo di ordine, perché abbiamo fatto come tutto il primo blocco sul Movimento 5 Stelle. Sì. Qui, secondo me, la commissione di vigilanza, cioè noi dipendiamo, no, abbiamo dobbiamo parlare un po' non degli possiamo parlare di quella cosa lì che succede, niente, non parliamo nemmeno mare, diciamo, e nemmeno energia, niente. Quello non si può. Allora dobbiamo parlare degli altri partiti. Ora devi sapere che questa settimana si può parlare, perché non riguarda quello, il nostro primo ministro Matteo Renzi ha parlato di noi stiamo facendo le opere pubbliche. Tra l'altro questa settimana è stato anche approvato il nuovo codice sugli appalti. Ha parlato di ordine pubblico. C'è chi dice che sia un attimo allargato, nel senso che ha allargato un po' i confini, a sconfia. Però c'è anche chi dice no, non ha sbagliato. C'è chi dice no, come c'è diceva Vasco. Ti rendi conto che praticamente Renzi è vittima delle stesse cose di cui era vittima quello di prima, cioè le gaffe, le controgaffe, la rete che lo ironizza, le cose. Vabbè, vuoi sentire in che modo si è allargato? Ma sentiamo cosa è successo, come si è allargato, come ha sconfinato Matteo Renzi. Noi siamo l'unico paese al mondo che in questo momento sta facendo tre opere strepitose dal punto di vista ingegneristico di collegamento con l'Europa. Noi abbiamo tre tunnel che sono il, ovviamente a livelli diversi, il Gottardo che si inaugura il 1 giugno con la Svizzera, il Brennero che abbiamo sbloccato noi che ci collega con l'Austria, e la Torino-Lione con la Francia. No, allora io vado spesso in Svizzera sono anche un po' svizzera di ascendenze. Te pareva, avrai fatto la tesi sulla TV svizzera. No, sempre la TV francese. Va bene. Ma il Gottardo è da un'altra parte. Sì, d'accordo. Il Gottardo non c'entrerebbe con noi, perché sarebbe della cosa è un po' svizzero. Sì, esatto. Però c'è chi dice che lui intendeva dire che noi intendeva? Non l'ha capito. No, che noi abbiamo preparato tutta l'altra parte del canale che da Genova va su, non so come si chiama, la direttrice ABCD, quella roba europea. Infatti tanti anni fa anche Antonio Di Pietro, quando era ministro, no, parlo piano perché mi dicono che urlo, aveva detto quindi c'è chi dice che non è una gaffe, però diciamo che un po' suona così. Però mi sembra che suoni benissimo. Vabbè, lui poi ha detto a diversi livelli. In effetti devo dire che se uno guarda il video, se lo trovate su internet, allora, mentre dice le altre due opere, Graziano Del Rio, che era di fianco, dice sì. Quando dice Gottardo è più tiepido, è più immobile, perché voleva capire dove si arrivava. Magari diceva abbiamo fatto il tunnel sotto la Manica, si allargava un po' troppo. Era quello del CERN, il tunnel, ecco, quello sì, là brava, anche. In rete. Quello era stato il ministro di allora Gelmini. Sì, i tunnel sono Va bene, sempre voltiamo un po' complessi pagina. Come allora geografia. Abbiamo coperto il PD, adesso dobbiamo coprire il centrodestra, ma un po' torniamo anche a parlare del Movimento 5 Stelle. Ne abbiamo per tutti. Esatto. Allora, no, intanto volevo, a proposito di PD, io qualche giorno fa vedevo una foto in cui si stigmatizzava una Boschi troppo sexy. Ah, vedete la ma non ci assomigliava neanche un po'. Perché non era lei. Non era lei, era una foto spacciata in rete come foto di gioventù di Maria Elena Boschi molto sexy. Brava. Ma non era lei. Vedi, è il tema del giorno. È lei o non è lei? Però non si tratta della Boschi questa chi è, volta. Chi non è lei? Allora, chi si tratta di Virginia Raggi. Sai chi è? Sì. Certo. Allora, candidato sindaco, dei sindaci possiamo parlare per ora, poi non poi più, neanche quello neanche basta. Più di quello. Allora, è candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Però sai che tanti dicono che molti elettori di centrodestra potrebbero votare per lei, perché piace un po' agli elettori di centrodestra. E allora in rete sono andati a beccare che forse Virginia Raggi era in un video di una determinata canzone. Senti che livello di canzone proprio altissimo, quasi come quelle che senti tu. Non faccio nomi, se no mi querelano. Sentiamo. C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Ma me la ricordo questa. Beh, vabbè, meno male che Silvio c'è, però meno era... Meno male che Silvio c'è. Era Berlusconi. Pare, a un certo punto, compare una ragazza mora. Sì. Discreta, come dici, un bel bagaglio. No, una bella tusa. Ecco. Discreta, una ragazza discreta che vagamente assomiglia, solo perché mora agli occhi. Per me non assomiglia per nulla. E quindi allora, infatti, Virginia. Rete, no, in rete, addirittura lo è un po' sull'Unità Online. Allora, Virginia Raggi ha detto: grazie all'Unità per la pubblicità, però quella lì su Mingami non sono io. l'avrà detto il romano. E poi? E poi, no, per ma no, ci segnalava il nostro Christian, proprio per fare un po' di par condicio. Ah sì, che invece nell'altra canzone, è una, sempre una canzone? Sì, sempre una canzone. Un video. Quella del PD, sempre un video che noi mandiamo alla radio. Quella del PD c'era invece un'altra, che invece forse era lei, la quasi ministro degli esteri, perché è stata vicino a diventarlo. Papabile, deputata del PD di Milano, Lia Quartapelle. Ma la canzone era bella? Sentiamola. Cantiamo tutti insieme IMTV, cantiamo tutti insieme IMTV, senza Silvio ma neanche Dini, perché una nuova stagione c'è. No, ma io l'avevo rimossa questa, però lei erano canta tutte due orribili. Lei canta anche. Erano tutti brutte, erano veramente imbarazzanti. Vabbè, però sono canzoni della politica. Prova tu a fare una canzone sul PD. Cioè, e vabbè, però agli MPD no. Tant'è vero che quando il PD o gli altri partiti hanno provato a usare le canzoni dei veri cantanti, hanno detto no, giù le mani, per favore, ti ricordi? Hanno usato canzone popolare, poi hanno usato altre canzoni. Che dire, d'altronde qui in rete si passa il tempo a cercare di trovare gli scheletri nell'armadio e le cose del passato. Anche perché resta tutto, in rete, bisogna stare attenti, non fate nulla, non facciamo più non nulla. Non facciamo più poi, niente, sì. Perché poi si ritrova. Io dico sempre, il scheletro nell'armadio li ho, ma nel mio armadio sono vestiti benissimo, perlomeno. Quello. Io gli scheletri nel cloud soprattutto non bisogna metterli. No, infatti, perché come si dico sempre con Enrico Pagliarini, che è lì che sta girando dietro di noi e fa le corna da dietro al vetro, non si può dire. Che dice sempre cloud significa computer di qualcun altro, ricordiamocelo. Ricordiamocelo, è un bel ragazzi, insegnamento. Ragazzi, dobbiamo salutarci, è finito le tre ore. Bellissimo sabato del villaggio qui dal Salone del Mobile. Cucine Lube qua. Domani ancora altri bellissimo. Programmi qui dal Salone del Mobile. Allora, ringraziamo tantissimissimissimo. Sì. Roberta Frisani che è stata in regia qua, perché Valeria Bernardi che è stata in regia là. In studio, ma c'era anche Michelino Breviato e poi c'è Cristian Goldoni che come sempre, se grazie a lui andiamo in onda, altrimenti non ce la possiamo fare. Daniele, sì, a sabato prossimo, alle 15 per il sabato e alle 17 per Radio Tube. Al sabato prossimo. Ciao.